loro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci qui, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, puntata speciale oggi di Non ci sono più le mezze stagioni. Ve l'avevo promesso da un po', come non ci sono più le mezze stagioni, a volte non ci sono proprio le puntate ortodosse. Questa è una puntata monografica, perché a proposito di notizie della settimana, siamo abituati insomma a commentare insieme, c'è una notizia che tempo fa, nelle ultime settimane, mi ha colpita profondamente, anche se non è una novità, ma sicuramente è qualcosa che si è acuito molto di più negli ultimi tempi, e cioè era questo rapporto dell'Istat sui giovani italiani. 2 milioni tra i giovani italiani, 2 milioni non lavorano e non studiano, perché c'è poca occupazione, c'è poca formazione, c'è pochissima mobilità sociale, cioè la possibilità insomma di migliorare il proprio status sociale economico nel corso della vita, come era magari per i nostri genitori ancora prima. Poco futuro insomma per le giovani generazioni. E allora il sottotitolo che darei a questa puntata di Non ci sono più le mezze stagioni, questa puntata tutta centrata su questo tema, è: che fine ha fatto il futuro? Oppure, per stare un po' più diciamo adiacenti anche al titolo della trasmissione, il futuro non è più quello di una volta. Ecco, potremmo dire così, nel senso che sembra che ci sia proprio un cambiamento sociologico, ma quasi antropologico, oltre che culturale, no? Del modo di percepire il futuro. Quindi soprattutto per i giovani, quando si parla di futuro si associa in particolare ai giovani che ancora appunto lo devono, hanno tanta vita davanti, devono viverlo come se lo costruiscono. Bene, dagli ultimi dati, c'è stata anche questa ricerca del centro studi del Censis, che ha detto, a parte che la popolazione nei prossimi 20 anni invecchierà sempre di più, ci sarà sempre più un maggior divario tra nord e sud, parlando dell'Italia. Quello che vorrei chiedere agli ospiti che tra poco vi presenterò, tanti opinionisti estemporanei, non uno solo come di solito nelle puntate di Non ci sono più le mezze stagioni, vorrei chiedere appunto: che percezione c'è del futuro? C'è possibilità di futuro? Qualche tempo fa Massimo Gramellini sulla Stampa scriveva: soprattutto per i giovani, le giovani generazioni, il futuro è morto. Lo diceva proprio senza mezzi termini. È così oscura, insomma, buia la prospettiva, oppure un'esagerazione? Insomma, cerchiamo di capirlo insieme. Intanto, prima di presentarvi gli ospiti, vorrei dare un'idea, insomma, in musica, ecco, di come sembra prospettarsi appunto il futuro, soprattutto per i più giovani. Hey mister futuro, dimmi un po', sei così insicuro? Se tu lo fossi, allora giurerei che in fondo già somigli un po' anche a me. Dimmi un po' cosa hai deciso che mi toglierà il sorriso. Sotto il cielo dei tuoi guai un posto c'è. Ci sarà un posto, che futuro, il futuro cosa ha deciso insomma per le persone soprattutto più giovani. Allora, signore e signori, ecco, vi presento uno dopo l'altro gli ospiti di oggi. C'è Aldo Cazzullo, giornalista, scrittore, inviato del Corriere della Sera, oltre alle varie vicende nazionali ha seguito per il Corriere vari eventi internazionali e ultimamente è in Sudafrica per i mondiali. Benvenuto Aldo Cazzullo. Buongiorno, eccomi. Ciao Aldo. Poi c'è Franco Lacek, l'antropologo, ha insegnato antropologia culturale a Berkeley, Parigi, Venezia, Losanna, è saggista e da Parigi in questo momento ci risponde, quindi cercherò di essere, diciamo, di dare la priorità, chiedendo pazienza agli altri ospiti, ad Aldo Cazzullo, che appunto sono in terra straniera, Aldo Cazzullo, dicevo, in Sudafrica. Franco Lacek a Parigi. Grazie, sì, Franco. Buongiorno. Eccoci. E poi c'è Tito Boeri, economista, fondatore del sito lavoce.info, docente all'Università Bocconi di Milano. Grazie di esserci, Tito Boeri. Buongiorno, buongiorno. E poi, che ha scritto tra l'altro di recente, contro i giovani come l'Italia sta tradendo le nuove generazioni, insieme a Galasso, a Vincenzo Galasso, e quindi mi pare piuttosto in tema il suo libro. C'è Luca Ricolfi, sociologo, saggista, insegna analisi dei dati all'Università di Torino. Luca, ben trovato. Buongiorno. Illusioni italiche e il sacco del nord sono i suoi ultimi libri. E poi sentiremo anche più in là, ma ci sono anche Elisabetta Fernandez, sociologa esperta di relazioni sociali. Elisabetta, grazie anche buongiorno. A te per la tua presenza. E c'è Valeria Della Valle, ospite fissa di Non ci sono più le mezze stagioni, linguista della Sapienza di Roma, che magari tra le varie chiacchierate che faremo vari termini li coglierà per dirci un po' anche come cambia il vocabolario, come cambia la realtà. Vorrei iniziare allora con Aldo Cazzullo. Aldo, visto che sei in Sudafrica, tu sei ovviamente poi in un continente che ha ben altre questioni, un continente giovane con i problemi che sappiamo, che magari guarda al futuro ovviamente in modo diverso rispetto a noi in Italia. Ma tu, per esempio, nel tuo ultimo libro, L'Italia dei Noantri, no, parli del fatto che l'Italia è fatta ormai di caste, di tribù, di clan, di famiglie. Vuol dire che anche questo in qualche modo mette un muro di gomma verso il futuro? Per esempio il fatto che la meritocrazia ormai sia un termine sparito dal dizionario italiano, forse? Sì, beh, io ho scelto la parola chiave Noantri, che è una parola romanesca, perché Roma nel bene e nel male diventa sempre più centrale nell'Italia di oggi, ma il concetto di noi altri esiste in tutti i dialetti e vuol dire appunto questo: il clan, il campanile, la fazione, la corporazione. E la mia impressione è che i giovani abbiano la percezione che non valga più, non serve più investire sul futuro. Non a caso non abbiamo delle grandes écoles, delle grandi scuole, con qualche eccezione naturalmente, delle grandi scuole che preparino una classe dirigente. E si ricerca il rapporto personale, il rapporto tra cliente e patrono, il rapporto familiare o addirittura matrimoniale. Si ricerca l'inserimento appunto all'interno di un clan, di una rete di alleanze, di rapporti, e piuttosto che non una formazione indipendente, libera e anche con le fatiche e sacrifici necessari. E l'impressione è davvero quella di un paese che non creda più nel futuro e che si affidi appunto alle soluzioni amicali, relazionali, consuete. E questa è una sensazione che qua dal Sudafrica, che è un paese come lei ricordava, no, diamoci del tu, Aldo, ce lo diamo tanto del tu, che ha quadruplicato la sua popolazione in 40 anni drammatici di violenza, di storie drammatiche, ma è un paese giovane da questo punto di vista, è un paese in crescita. Ho la sensazione che non la stessa cosa si possa dire di noi. Senti Aldo, tu, non ti chiedo un pronostico sulla finale ovviamente, ma il pronostico te lo chiedo per l'appunto sul futuro, no? Per quanto riguarda in particolare l'Italia. Sei così pessimista come molti analisti in questo momento, dei sacrifici che ci sono da fare, che la situazione potrebbe peggiorare? Addirittura c'era un pezzo e prima pagina di Repubblica qualche settimana fa, e c'era accanto un editoriale di Tito Boeri che diceva: i giovani in pensione, il primissimo titolo, in prima pagina, a 70 anni. Quindi a proposito anche delle riforme strutturali, cosa vorrebbe, tra poco si andrà a 90 anni. Che succede, Aldo? No, io ho letto l'articolo di Boeri ed è come sempre molto interessante. La mia sensazione è che tanti giovani firmerebbero la prospettiva di andare in pensione anche tardi, perché significa che nel frattempo avranno trovato un lavoro che li consenta anche di programmare la loro vita, di mettere su casa e famiglia. Però io non mi sento di fare professione di pessimismo. È giusto analizzare il presente con tutta la severità che il presente merita. È anche vero però che l'Italia ha risorse di coraggio, di know-how, di cultura molto profonde, e quindi non è un buon motivo per arrendersi. Il prossimo libro con cui mi sto cimentando è proprio un libro sull'identità italiana, sulla storia, il risorgimento, la resistenza, e io sono convinto che gli italiani siano, per esempio, intimamente legati alla loro nazione, alla loro storia, alla loro identità. Nonostante tutte queste polemiche sui 150 anni, Aldo. Male di noi stessi e dell'Italia, però quando lo sentiamo fare all'estero ci arrabbiamo molto e ci consoliamo dicendo che l'Italia è in fondo il più bel paese del mondo, che però non deve essere una consolazione, deve essere uno sprone a meritarci il patrimonio che la natura e i nostri padri ci hanno consegnato. Da questo punto di vista il lavoro da fare moltissimo, però ripeto, non mi sento di fare, anche forse perché sono molto lontano dal mio paese, mi manca molto, non mi sento di fare professione di pessimismo, ma semmai di realismo positivo. Ma Franco La Cecla, da antropologo, ti sembra che ci sia proprio un cambiamento antropologico di noi italiani? Prima c'erano le tappe anche, no? Proprio così, diciamo, comandate, nel senso che si cercava all'inizio, quando si cresceva, l'indipendenza dalla famiglia d'origine con molta difficoltà, poi dopo ci si faceva una famiglia propria, con tanti sacrifici si acquistava una casa, si compravano gli elettrodomestici, si cambiava la macchina, c'era una progettualità. Non è detto che le cose debbano rimanere maniere così ingessate, anzi c'è un'evoluzione anche sociale, anche solo guardare i rapporti un po' cambiati tra donne e uomini, anche se non del tutto. Come lo vedi tu? C'è davvero questo cambiamento e in che termini? Ma guarda, intanto appunto diciamo ci sono le cose oggettive, nel senso che effettivamente è un paese di vecchi, questo non c'è dubbio. Appunto io sono stato recentemente in India, ho visto Rajiv Gandhi ad Ahmedabad fare un comizio e di fronte a lui c'erano 100.000 persone, erano tutti al di sotto dei 20 anni, e lui diceva: voi siete effettivamente questo paese e siete il futuro del mondo in qualche modo, e loro lo sanno, perché giustamente un paese con 1 miliardo di persone con 70% meno di 20 anni, insomma, noi non siamo in questo caso. Dunque io vedo sicuramente un cambiamento, cioè è sicuro che da un certo punto di vista il nostro è un paese imbambolato, cioè un paese in cui una classe dirigente, ma insomma non, degli ultimi probabilmente 30 anni, ha avuto un grande timore dei giovani, e quindi ha fatto di tutto perché i giovani, quelli diciamo di un certo tipo, fossero convinti che i tempi di prima erano meglio, cioè il 68, quelli di un altro tipo fossero convinti che bisognasse allearsi con un crudo realismo e vendersi. Però insomma nell'insieme appunto sicuramente c'è stato un cambiamento, cioè gli anziani hanno un peso enorme nel far credere ai giovani che non possono far nulla, insomma. Però questo diciamo è una parte del paese, non bisogna dimenticare che il paese c'ha un sacco di Erasmus, cioè che il paese è salvato dal fatto che l'Italia ha almeno 3 milioni di giovani che stanno all'estero. Ma questa è la fuga dei cervelli, quindi comunque un aspetto negativo, o sono i giovani che studiano anche all'estero, gli Erasmus citati? Questa è l'Europa, e grazie a Dio che c'è, cioè in qualche modo è giusto, perché poi non è gente che se ne va, è gente che va, torna, rientra, per cui cioè c'è anche questo paese. Ora è chiaro che in un paese che non offre molto neppure dal punto di vista della formazione la gente vada via, però è anche possibile che una buona parte di questa gente torni, cioè insomma questo, noi non dimentichiamoci che l'Italia è stata fatta dagli emigrati, non dagli italiani, cioè sono stati i 20 milioni di emigrati italiani che hanno fatto l'identità italiana, che hanno fatto gli anni 70, che hanno fatto il boom economico, per cui diciamo non è nuovo essere salvati da italiani all'estero. Quello che è cambiato è in generale che una certa visione è diventata molto più conservatrice, però secondo me questo a destra come a sinistra, cioè io continuo a stupirmi del fatto che insomma gli amici di sinistra che incontro in Italia si dicono conservatori, perché è come se ci fosse una specie di nostalgia degli altri tempi, e questa è una cosa tragica e drammatica, perché non si capisce, perché questo impedisce molto di più di prima ai giovani di inventarsi cose nuove. C'è un libro di Martin Amis che è uscito qualche mese fa che si chiama La vedova incinta, che dove lui un po' racconta questa sindrome anche per l'Inghilterra, no? Ed è interessante perché appunto effettivamente cioè è come se ci fosse una mancanza di paternità nei confronti delle nuove generazioni. Questo è il vero problema, cioè è come se le nuove generazioni non avessero effettivamente modelli innovativi, e quindi è come se pensassero che innovare sia impossibile perché nessuno prima di loro ha innovato e quelli che ci hanno tentato sono stati sconfitti, insomma è un po' questo. Però dunque nell'insieme io penso che appunto, diciamo, a parte il problema demografico, però l'Italia è un paese con una buona dose di follia, quindi può anche darsi che i giovani si diciamo non rimangano preda di questa specie di fatalismo televisivo e che invece siano capaci di fare un salto più avanti. Appunto non so, io non credo molto appunto nelle inchieste del Censis. Quello che è sicuro è che sicuramente siamo in un momento storico in cui i giovani non si sentono incaricati di fare una rottura. Questa è la cosa più grave, probabilmente. Bene, molto interessante questo concetto, soprattutto appunto dei modelli nuovi che mancano, del non sentirsi di fare una rottura rispetto al passato. Aldo Cazzullo, prima di lasciarci, che so che sei lì di corsa in Sudafrica, in quest'ultimo minuto, che cosa pensi a proposito di queste teorie, insomma, di questo pensiero che lanciava Franco La Cecla? L'Italia dei 90, il libro che gentilmente citavi prima, finisce con una lunga citazione della Cecla, che non conosco, ma che mi ha convinto molto quando appunto, sì, pure in un quadro molto critico, ricorda queste grandi risorse che ha il paese. Ad esempio lui parlava della Lega dicendo, ovviamente in modo critico, però, cioè, però dietro la Lega c'è un popolare, c'è un particolarismo molto ricco che rappresenta un nostro specifico culturale molto forte. Quindi insomma mi associo alla, sia al suo spirito critico, ma anche a questa consapevolezza delle grandi energie più o meno nascoste che gli italiani hanno, che nei momenti di maggior difficoltà, e questo sicuramente lo è, sanno tirare fuori. Grazie Aldo Cazzullo, però ci è sembrato piuttosto ottimista Aldo, ma lo lasciamo visto che sta seguendo le ultime fasi dei mondiali in Sudafrica. Volevo anche accennare un po' queste note musicali proprio su una specie di, più che di sorte, che capita sempre più spesso insomma ai giovani, quasi un destino. Io sono atipico, precario, parasubordinato, per la mia condizione nessun nome è azzeccato, io resto invisibile tra le pieghe del mercato, lavoratore numero con un volto sconosciuto. Allora, sentivamo un po' le analisi di Aldo Cazzullo dal Sudafrica, di Franco La Cecla, antropologo che vive in Francia, che insegna, che ha insegnato finora in tante università internazionali. Insomma, mi sembravano alla fine piuttosto, nonostante analizzando la situazione oggettivamente negativa al momento, abbastanza ottimisti. Si fondano soprattutto il loro ottimismo sul fatto che comunque in Italia c'è sempre vitalità, c'è sempre energia, ci sono le risorse, però tu da economista, no? Anche a proposito di questo che dicevo delle riforme strutturali, le pensioni, si andrà in pensione sempre più tardi, ma quelli che lavorano adesso, che lavorano appunto da precari, come diceva la canzone, che futuro possono avere da ogni punto di vista, Tito? Ma innanzitutto io non ho una nostalgia così forte per il passato, come parlava, come diceva Franco La Cecla, nella frase di Valéry, il guaio dei nostri tempi è che il futuro non è più quello di una volta. Io penso che i giovani oggi abbiano di fronte a sé una situazione molto difficile, molto complessa, non solo in Italia, ma in Italia più che altrove, in cui c'è molta più concorrenza, in cui è sicuramente un mondo in cui sarà molto più difficile farsi strada, in cui ci saranno delle disuguaglianze molto più forti che in passato, un mondo che premia sempre di più le eccellenze e dà meno spazio alle mediocrità, per cui davvero la competizione è molto più serrata. L'Italia però ha dei problemi suoi, particolari sui giovani, che mi fanno pensare che l'Italia, ecco, forse il titolo più giusto che avrei dato a questa trasmissione, che avrei voluto dare al mio libro, quando poi ormai l'avevamo già chiamato Contro i Giovani, ma il film... Come l'Italia sta tradendo le nuove generazioni, sì. Ecco, io l'avrei chiamato Questo non è un paese per i giovani. Mutuando il titolo del film dei fratelli Coen, sì. Perché il problema di fondo dei giovani oggi è l'ingresso nel mercato del lavoro. Ripeto, non è che, voglio dire, fino a 20 anni fa c'era il problema della disoccupazione giovanile, non si entrava nel mercato del lavoro, si stava molto in attesa in famiglia prima di entrare e di avere il posto fisso. Negli ultimi 15-20 anni è che è successo qualcosa, abbiamo avuto questo boom dei contratti temporanei che sicuramente per certi aspetti migliora un po' la situazione, perché infatti con lo sviluppo di questi contratti la disoccupazione giovanile è diminuita, però anche questa non è la soluzione, perché sta diventando sempre di più una specie di mercato del lavoro parallelo che è fatto di instabilità, disoccupazione frequente, di salari più bassi, di poche prospettive, di mancanza di investimenti in formazione. Questo è davvero il nodo cruciale. Un datore di lavoro che assume un lavoratore con un contratto a tempo determinato o nel parasubordinato non forma il dipendente. Una buona parte del nostro capitale umano, della nostra crescita, delle nostre conoscenze proprio si forma nei primi anni in azienda, normalmente questo avveniva, ma con questi contratti non c'è più alcuna spinta per il datore di lavoro, per lo stesso lavoratore, a investire nel futuro di questo rapporto di lavoro, e quindi alla fine vengono fuori dei lavoratori che non si formano in azienda, che non acquisiscono le competenze che li proteggerebbero meglio dai rischi di mercato e che sono destinati ad una vita lavorativa molto difficile e poi a delle pensioni molto basse. Il problema delle pensioni dei giovani non è nelle regole pensionistiche in quanto tale, il problema delle pensioni dei giovani è nel funzionamento del mercato del lavoro, però dobbiamo affrontare adesso il problema del mercato del lavoro dei giovani per non condannare i giovani che oggi entrano nel mercato del lavoro ad avere fra 40 e 50 anni delle pensioni da fame, quindi è un problema che noi dobbiamo affrontare subito. Io spero che in tutte queste discussioni che ci sono spesso, perché l'Italia è il paese dei convegni e delle grandi discussioni, si arrivi a prendere delle decisioni. Ci sono delle proposte di riforma del mercato del lavoro che servirebbero a unificare i percorsi di ingresso nel mercato del lavoro, è un problema che ne abbiamo in comune con altri paesi come la Spagna, la Francia, ne abbiamo discusso tanto anche con colleghi di questi paesi. Io spero che da parte della nostra classe politica e delle stesse forze sociali ci sia una vera comprensione del fenomeno. È chiaro che sin qui tutte le scelte sono state fatte, le politiche quando si dovevano fare delle scelte difficili venivano fatte soprattutto a spese dei giovani che sono meno rappresentati nel processo politico, però una classe politica lungimirante, oltre che cercare di trovare il modo di penalizzare quelli che protestano di meno, dovrebbe pensare più in là nel tempo e quindi capire che se non si dà una prospettiva seria ai giovani il paese in generale non ha un futuro, quindi anche per l'elettore medio, quello che è più importante per il loro consenso, è davvero importante che questo paese dia prospettive diverse ai più giovani. Luca Ricolfi, però questa situazione che fotografava Tito Boeri, no, di quanto sia difficile per i giovani entrare nel mercato del lavoro, la precarietà, questa diffusione dei contratti temporanei, è un problema. La crisi è arrivata più o meno dal 2008-2009, ma prima questo andazzo, diciamo così, si era già sviluppato da molto prima, non è soltanto una cosa congiunturale. Da cosa dipende secondo te, Luca Ricolfi? Ma ci sono sempre tanti motivi. Il mercato del lavoro sicuramente è uno dei principali, è un mercato del lavoro strutturato per favorire sostanzialmente il capo famiglia maschio e la sicurezza. Chi è in posizioni di ipertutela sindacale e normativa, questo ha determinato delle conseguenze molto drammatiche, tra cui la dipendenza enorme dei giovani dalle loro famiglie, quello che hanno studiato bene Alesina e Chino nel loro ultimo libro sull'Italia fatta in casa. Sì. I nostri giovani sono incatenati alle loro famiglie anche perché i capifamiglia sono sempre stati la categoria più protetta da tutto il nostro sistema. E questo è un aspetto. C'è poi un altro aspetto ed è il tipo di formazione di posti di lavoro che si ha in Italia. Noi abbiamo una specializzazione produttiva che non è la più razionale dal punto di vista della capacità di produrre reddito. Noi abbiamo troppi posti di lavoro in settori tradizionali, spesso occupati dagli immigrati, e pochi posti nei settori produttivi più dinamici. Poi c'è un aspetto di cui si parla pochissimo, che è il capitale umano. Qui mi spiace dirlo, ma c'è una responsabilità innanzitutto della generazione dei padri nell'avere così a lungo e così pervicacemente svalutato l'importanza della formazione e dello studio. Noi abbiamo in questo momento la Germania che investe in istruzione e in ricerca e noi che tagliamo i fondi in questo campo. Io vorrei ricordare questo, che è una cosa che non so se tutti sanno. Su 100 giovani attualmente più del 33%, cioè più della metà, più di un terzo, scusate, non raggiunge nessun titolo di studio superiore alla licenza media, cioè o hanno la licenza elementare o hanno la licenza media. Che è incredibile, no? Nei nostri anni. 34% nel 2009, sono i dati di adesso. Le lauree, grosso modo nella fascia 30-34 anni noi abbiamo il 19% di laureati, ma di, che è il, uno dei valori più bassi dell'OCSE, la metà della media OCSE, ma di questo 19% di laureati solo 11 hanno una laurea vera e propria, cioè su 100 giovani noi abbiamo 11 giovani che riescono a prendere una laurea normale, cioè con i 4 anni, 5 anni di studio, mm-hmm. 11 su 100 è niente rispetto agli altri paesi, c'è un 10% di giovani che alla fine si perde nell'università senza avere un titolo professionale, non si laurea in nessun senso, né primo livello dopo 3 anni, né secondo livello dopo 5 anni, e ha solo una maturità di tipo liceale, quindi è inservibile sul mercato del lavoro. Allora, se noi sommiamo quel 34% che ha la licenza elementare o la licenza media, quel 10% che ha solo la maturità liceale non riesce a laurearsi in nulla, abbiamo il 44% dei giovani che sono senza un mestiere, non hanno un mestiere, però hanno una famiglia che gli ha consentito questo, perché non hanno dato importanza, generalmente non hanno dato importanza allo studio, qualche volta non hanno potuto farlo, magari, no? E questi giovani, qui io non sono tanto d'accordo con chi dice energia, spinta, innovazione, eccetera, la spinta importante è data dal fatto di avere una situazione di bisogno innanzitutto. Questa situazione di bisogno non c'è in molti casi, nella maggior parte dei casi, perché ci sono famiglie iperprotettive e iperpatrimonializzate. Non dimentichiamo, noi in Italia abbiamo un livello di patrimoni familiari che è molto alto rispetto agli altri paesi, abbiamo una natalità bassissima, quindi il tipico giovane è un figlio unico con una famiglia che gli lascerà qualcosa in eredità e che gli permette poi di andare un po' ancora di non studiare, di non lavorare o di lavorare poco, di studiare poco. Che cosa rappresenta effettivamente per molti giovani che non riescono quasi a dire domani la vita oggi? Sai com'è, la vita è un dado da giocare così, è come un fiore colto e dato che poi va come va. Va come va, ma Tito Boeri, visto che ci devi salutare per i tuoi impegni, dicevi appunto che qui è necessaria assolutamente una riforma del mercato del lavoro per dare un futuro, che il futuro poi non riguarda soltanto il lavorare, perché senza lavoro poi uno non si costruisce una famiglia o anche solo dei rapporti, non può costruirsi una vita, una casa. Che, dici due o tre possibili così, una ricetta, qualche consiglio per questa riforma di cui tanto si blatera, possiamo dire, ma poi alla fine qualcosa di concreto ancora manca, no Tito? La cosa fondamentale è quella di unificare i percorsi d'ingresso nel mercato del lavoro. Oggi i giovani al 90% entrano con dei contratti a termine che hanno una scadenza proprio sul contratto stesso, il che impedisce a loro, al loro datore di lavoro, di fare così, di investire sul futuro di questo rapporto di lavoro, investendo soprattutto nel capitale umano, nella formazione, nelle conoscenze specifiche sul mercato del lavoro, perché buona parte del capitale umano lo formiamo non solo nell'istruzione formale, a scuola, in università, ma lo formiamo proprio sul posto di lavoro. Questo oggi non avviene e quindi i giovani entrano in questo modo e rischiano di rimanere relegati a lungo, se non per tutta la vita lavorativa, in una situazione che è fatta di frequenti interruzioni di lavoro, di cambiamenti di lavoro frequenti, ma di lavoro di breve periodo, di poca qualità, pochi investimenti in formazione, salari molto bassi e poi un domani pensioni basse perché il mercato del lavoro è stato di questo tipo. Allora, come cercare di unificare? Un modo per farlo è quello di istituire un contratto a tempo indeterminato che però concede dal datore di lavoro nella prima fase, nella fase di ingresso nel mercato del lavoro, una maggiore flessibilità. Oggi perché i datori di lavoro non offrono un contratto a tempo indeterminato fin dall'inizio ai giovani, preferiscono questi contratti a tempo determinato? Perché hanno paura a prendere degli impegni di lungo periodo con delle persone che conoscono ancora poco. Se invece si desse la possibilità ai datori di lavoro di assumere con un contratto che è fin da subito a tempo indeterminato, ma che per tutta una fase iniziale di inserimento prevede delle tutele non così forti, ma che crescono gradualmente nel corso del tempo con la relazione di lavoro, avrebbero tutto il modo di valutare le competenze del lavoratore, di capire se è la persona adatta, di investire nella formazione del lavoratore per migliorarne la produttività, l'efficienza nell'azienda, l'inserimento nell'azienda, e poi pian piano, man mano che il contratto di lavoro prosegue, il rapporto di lavoro prosegue, le tutele diventano sempre più forti. Sarebbe un modo per offrire fin da subito delle tutele ai lavoratori, perché oggi non dimentichiamoci che chi ha un contratto a tempo determinato alla scadenza può essere, virgolette, licenziato senza che il datore di lavoro paghi alcunché. Molti di questi giovani non hanno neanche accesso agli ammortizzatori sociali che oggi vengono forniti in Italia, quindi si dà loro più tutele. Al tempo stesso c'è un orizzonte di lungo periodo, non c'è una scadenza che c'è subito all'inizio, e non c'è un regime salariale diverso per questi lavoratori, cosa che li appesantisce. E poi godono di tutti gli altri trattamenti di cui gli altri lavoratori sono dotati, per esempio durante periodi di disoccupazione vengono versati gli oneri figurativi, che vuol dire che non perderanno le loro pensioni e non ne risentiranno troppo. Ecco, questa mi sembra una proposta che potrebbe essere attuata e a costo zero per le casse dello Stato, quindi non crea problemi in un momento così difficile per i nostri conti pubblici, credo che davvero sarebbe un modo per non buttare a mare quel che di buono abbiamo avuto della flessibilità introdotta in questi anni, cioè abbiamo avuto più posti di lavoro creati per i giovani senza però creare il dualismo che abbiamo oggi. Certo. Grazie Tito Boeri, allora buona continuazione Tito, io spero che gli altri ospiti abbiano sentito, visto che c'erano questi problemi con il telefono di Tito Boeri, insomma, la tecnologia a volte. Comunque quello che diceva Tito dava dei consigli per una riforma del mercato del lavoro, innanzitutto di unificare i contratti, farli tutti più o meno insomma a tempo indeterminato, magari più flessibili, magari con una progressione da quando si entra nel mercato in un'azienda. Piano piano il datore di lavoro può conoscere il lavoratore, il giovane, e man mano dargli le garanzie che insomma con il tempo sarebbe opportuno inserire. Però al di là di questo, Franco La Cecla, io volevo chiederti anche da un punto di vista, proprio visto che sei antropologo, antropologico, questo diverso modo di percepire il futuro, soprattutto partendo dal lavoro, cambia anche il modo di intendere i rapporti, per esempio, cosa che chiederò poi anche a Elisabetta Fernandez? Ma certo, perché probabilmente intanto cambia i rapporti tra generazioni, cioè rende le cose molto più immobili e rigidite, poi probabilmente cambia i rapporti tra uomo e donna, nel senso che effettivamente rendere donne ancora più dipendenti di prima, perché poi il mercato del lavoro oggi punisce le donne molto più di prima, quindi insomma sicuramente diciamo tutto ciò è come se ritiene si fosse trasformato in una specie di sistema di caste, per cui quelli che ci sono già ci sono e quelli che non ci sono devono arrangiarsi, però la mia impressione è che siamo in una società molto più imparudata, in cui non c'è appunto, è molto più difficile fare una scalata sociale, per esempio è molto più difficile riuscire, non nei termini classici diciamo di una società liberista, cioè il punto è che da una parte appunto non siamo più in un welfare effettivo, dall'altra parte però non siamo nemmeno una società liberista che consente ai meriti di andare avanti. Ora tutto questo sicuramente la Boeri ha ragione, bisognerebbe riformare il mondo del lavoro, però probabilmente tutto questo ha molto a che fare proprio un po' con la logica della trasmissione del sapere, quindi c'è un buco enorme ovviamente a livello di università, di formazione, e c'è un buco, io devo dire, a livello di ordini professionali. Una delle cose che si dimenticano sempre è che l'Italia ha un regime di ordini professionali di una vecchiaia terribile. Io sto cercando di svecchiare l'ordine degli architetti italiano ed è praticamente impossibile, nel senso che gli architetti sono ancora convinti che tutti dovranno diventare frangheri in un paese in cui bisogna ricostruire un'intera regione che è l'Abruzzo, per cui c'è un po' una follia generale. E io devo dire, io ce l'ho abbastanza a morte con gli ordini professionali, perché secondo me sono tra i maggiori responsabili dell'immobilità del nostro paese. Poi insomma, poi ovviamente ce l'ho anche a morte con l'università, insomma io sono uscito dopo 35 anni di insegnamento come entrato, perché mi hanno bocciato tutti i concorsi, quindi sono ancora un giovane da un certo punto di vista. Però insomma è veramente, cioè non si può giocare con queste carte qui, e fanno bene quelli che se ne vanno, io me ne sono dovuto andare Io tutti i giovani che incontro gli dico sempre andatevene, perché effettivamente è un paese che vuole molto male ai giovani, un paese che ha una paura terribile dei giovani, ma mai come adesso. Certo, se i giovani lo sapessero sarebbe meglio, se i giovani capissero che il paese ha paura di loro forse avrebbero più forza, forse si tratta di questo, cioè un paese, devo dire, un paese, cioè il provincialismo dell'Italia, di cui la Lega è un'espressione magnifica e che somiglia così tanto agli anni 20 in Austria, devo dire, il provincialismo dell'Italia è che i genitori lombardi o veneti non mandano i figli a imparare a Londra o a Parigi come fare un'impresa, se li tengono a casa, e questa è la follia, cioè la follia è che in un mondo globalizzato e concorrenziale sta vincendo una visione provinciale che è generale, cioè da una parte c'è la nostalgia, no? C'è la nostalgia di sinistra, dall'altra parte c'è la nostalgia provinciale, ed è un paese che è come se facessi a gara per restare indietro, insomma. Bello questo concetto di Franco La Cieca, un paese che fa a gara per restare indietro. Grazie, buona continuazione a Parigi, Franco. Grazie. Ciao, Franco. Ancora insieme per qualche minuto, Roberta Giordano sempre con voi, con i miei ospiti. Ho salutato Aldo Cazzullo del Corriere della Sera e l'antropologo Franco La Cieca, Tito Boeri, economista e docente all'Università Bocconi di Milano. Siamo sempre con il sociologo Luca Ricolfi, con la sociologa esperta di relazioni sociali Elisabetta Fernandez e poi Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Adesso io vorrei, abbiamo parlato molto di lavoro, perché da lì naturalmente dipende anche il futuro delle giovani generazioni, di questo in particolare stiamo parlando, no? Che fine ha fatto il futuro? C'è davvero futuro o no, soprattutto per chi è giovane? Manca la progettualità, con lavori precari si ha anche difficoltà a immaginarsi una vita futura. E allora adesso vorrei toccare anche alcuni altri ambiti, diciamo, del futuro che un pochino così abbiamo sfiorato. Io sono un portatore sano di sicuro precariato e anche nel privato. Questo volevo chiedere, Elisabetta Fernandez, anche nel privato resto in prova, no? Nel senso che davvero tutto questo cambia, non so se è cambiato, è una specie di causa-effetto, no? La modifica del mercato del lavoro, dell'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, delle persone, modifica anche poi il modo di stare insieme, di pensarsi insieme anche nel futuro, oppure sono varie cose così che capitano insieme nell'evoluzione del popolo italico e non solo, secondo te, Elisabetta? Questa precarietà nel mondo del lavoro sicuramente ha una ripercussione anche a livello relazionale, nella misura in cui il futuro è una dimensione sfuggente, è chiaro che i giovani si sentano un pochino limitati nell'orientarsi a livello relazionale. Una coppia stabile ha bisogno di sicurezze anche economiche, purtroppo, e quindi le ripercussioni di un mercato del lavoro così fatiscente per certi aspetti si ripropongono in ogni ambito del sociale. Io più volte mi sono trovata, sia per le indagini del mio istituto, sia per le mie lezioni universitarie, a contatto con i giovani di diverse situazioni geografiche. Hanno in comune però tutti una cosa che mi ha un pochino preoccupata: la paura per il futuro. Sì, cioè avvertono il futuro come una dimensione sfuggente, inquietante, quasi inquietante. Proprio a loro mancano dei punti di riferimento. Tutti abbiamo bisogno di punti di riferimento. Purtroppo i giovani a volte li ho percepiti stranieri a loro stessi, alla loro vita. E i modelli ci sono, modelli di riferimento ci sono, purtroppo sono modelli che navigano l'onda della banalità. Questo è l'aspetto drammatico. Abbiamo sostituito ai vecchi modelli tradizionali modelli inadeguati per un vivere nel benessere psicosociale. Quindi ci troviamo proprio di fronte a una situazione un pochino destabilizzante, però non vorrei fare professione di un pessimismo cosmico, assolutamente. Anzi, inviterei noi adulti a proporre una sorta di schermo attraverso il quale possa emergere almeno un barlume di speranza. Però non è che la risposta al non pessimismo debba essere un ottimismo poco intelligente, tutt'altro. È poco fondato, dici. È poco fondato. comunque sono sempre dell'idea che l'ottimismo aiuti a valorizzare gli aspetti positivi di una situazione, anche in questo paese così cristallizzato, userei questo termine un po' forte, perché è vero, siamo un paese di vecchi, non a caso quando l'altro ospite ha fatto riferimento al film dei fratelli Coen, è stato lo spunto per me per iniziare una lezione universitaria, proprio perché l'Italia ormai è un paese di vecchi, l'incremento demografico non esiste, siamo l'età anziana, si va protraendo sempre di più, e questo ben venga, per carità. Però al di là della data e del discorso anagrafico, io punterei a un'innovazione proprio psicologica, spirituale, comportamentale, che non farebbe sentire al nostro modo di essere italiani così vecchi. Quindi Luca Ricolfi, secondo Elisabetta Fernandez è anche una rivoluzione soprattutto culturale, ma tu sei d'accordo con quello che diceva Franco La Cecla, e cioè che questo paese ha paura dei giovani? Ma secondo me queste sono un po' tutte formule così generiche, a me non sembra che il paese ha paura dei giovani, il paese semplicemente è complessivamente disorientato, anzi secondo me semmai il paese ha la responsabilità di coccolarli e proteggerli eccessivamente, non ha affatto paura dei giovani. Forse ha paura dei giovani nel senso di tenersi la cadrega, come si dice, la poltrona, il posto. Generalmente ci si tiene la cadrega non per paura dei giovani, ma per paura del collega relativamente più giovane, che di solito non è un giovane in senso proprio. Cioè, tra l'altro i giovani non mettono veramente a repentaglio diciamo le sicurezze degli anziani, non solo perché c'è un'affezione alla cadrega, questo è ovvio, ma anche perché, ribadisco, il livello di istruzione dei giovani è modestissimo, cioè noi abbiamo un 11% di laureati veri, e io che ne laureo parecchi posso dire tranquillamente che almeno uno su due non meriterebbe la laurea, perché i nostri standard si sono abbassati tantissimo, quindi sono di più che in passato, certo magari 30 anni fa erano il 5%, però non mi sembra che i giovani siano competitivi, anzi il problema che io vedo che forse, a cui forse si riferiva anche un po' Boeri quando diceva che non c'è da rimpiangere il passato, è che oggi la disoccupazione è un fatto sovente volontario, nel senso che è qualcosa che ci si può permettere perché c'è una famiglia dietro che te lo permette, ti permette di non lavorare, lavorare poco, ti permette di studiare mettendoci 12 o 13 anni a fare un'università, eccetera, eccetera. I giovani tanto deprecati del Nord-Est, se non studiano, vengono immediatamente messi a lavorare. È vero, non vengono mandati a Oxford, però dici qualcosa, teniamo fanno, presente che l'andare all'estero, non a fare un Erasmus in Spagna, ma a fare degli studi di alto livello, è tuttora un privilegio dei ricchi, quindi dei molto ricchi, quindi è abbastanza normale che genitori di condizioni sociali medie o modeste si pongano il problema in loco. Adesso io vorrei, visto che di parole, di cose, di concetti ne abbiamo detti tanti, manteniamo la tradizione con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Valeria, in due minuti riesci così a farci un panorama di alcuni dei termini? Ma ci provo partendo dalla parola più nominata, e cioè dall'aggettivo precario. Ricordo solo che all'origine significava ottenuto con preghiere, quindi qualcosa che si concede per grazia, e da qui poi si è passati per estensione al significato di incerto, temporaneo, provvisorio. Ma l'aggettivo poveretto è diventato sostantivo alludendo alla categoria dei precari solo in tempi relativamente recenti. Aggiungo solo che anch'io sono stata tanti anni fa una cosiddetta precaria, quindi anch'io non rimpiango i vecchi tempi in un certo senso, ma arriviamo subito al punto. Ecco, la situazione che voi avete descritta, a parte precario, ha fatto nascere un gran numero di parole che alludono tutte a questo tipo di precarietà, anche se ufficializzato, pensiamo ai cococò, ai cocopro, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori milleuristi, precarizzati, ai lavoratori a programma, a termine, ai lavoratori, a quelli che si chiamano i discontinui, e poi per nominare il contratto a chiamata, il contratto a progetto, i lavoratori, insomma, ce ne sarebbe non un so quanto. Un vocabolario allora, intero da scrivere. Intero naturalmente non lo posso fare, per assurdo, ecco, considerazione amara, i precari appunto non hanno un lavoro certo, e tutti questi termini, tanti, per alludere allo stesso concetto, danno molto lavoro invece a noi, cioè lessicografi, a chi raccoglie le parole nuove che indicano invece una condizione non invidiabile. Buffo questo paradosso, da lavoro ai linguisti. A noi dà moltissimo lavoro, ne ho nominato solo la metà di tutte quelle che registriamo da oramai decenni. Grazie Valeria Della Valle. Allora grazie, chiedo proprio in questi due minuti che mancano, un minuto di conclusione a Elisabetta Fernandez e uno a Luca Ricolfi prima di salutarci. Intanto ringrazio alla parte tecnica Pietro Lacorte, poi in assistenza regia c'è Giorgio De Luca. Luca Ricolfi, proprio un minuto, 35 secondi. Sì. Vorrei concludere con una cosa positiva. Io sono pessimista, però ci sono anche dei segnali positivi, ad esempio le ragazze. Le ragazze hanno un livello di istruzione, impegno, capacità infinitamente maggiore dei loro coetanei maschi, e non è vero quello che ho sentito dire da qualcuno prima, che il mercato del lavoro punisce le donne. Per quanto riguarda le giovani generazioni, noi abbiamo da più di 20 anni un trend in cui le ragazze trovano occupazione più facilmente dei maschi, e lo trovano perché hanno un livello di istruzione decisamente più alto. Anche se continuano a essere pagate meno, comunque contratti un ma po' più... Ma anche questo è vero fino a un certo punto, a parità di lavoro non è vero, cioè una ragazza oggi, io parlo dei giovani, che fa esattamente lo stesso lavoro di un maschio, non è pagata di meno, non risulta, se c'è una differenza può essere minima, ci sono addirittura ricerche che dicono che sono pagate di più, per cui non abbiamo una ricerca seria che ci permette di dire i ruoli dirigenziali, però sono proprio minimi. Comunque insomma, Luca Ricolfi, ci dai un po' di ottimismo, almeno da questo punto di vista, e per me devo dire è un'ottima notizia questa. Elisabetta Fernandez, proprio 23 secondi sulla scia dell'ultimo intervento. Volevo appunto dire, sì, in America, negli Stati Uniti arriva la notizia positiva che le donne con percorso formativo di un certo livello riescono ad occuparsi più degli uomini. Però vorrei concludere lapidariamente dicendo che pensiamo un pochino di più alla progettazione, perché il futuro è nel presente, quindi muoviamoci oggi. Certamente, qui bisogna darsi da fare, questo era un po' il punto, diciamo il fuoco di questa puntata monografica. Ringrazio allora Aldo Cazzullo, Franco Lacecla, Tito Boeri, Luca Ricolfi, Elisabetta Fernandez, Valeria Della Valle e da Roberta Giordano. Comunque sia, come sempre, sereni orizzonti a tutti.